Kompananzi i koma tragabina. Tabata un siman promeku dia di ricevimento di Zipopo e di dosiu di Kompananzi i Shimaria. Ya kaba Kompananzi a combida enter su famia pa bin fiesta. Ya kaba Kompananzi a broma cu tursu amigo nan culotun fiesta di kita sombre, cu tur sorto di bolo, cu tur sorto di salada e naturalmente cu tur sorto di bibida. Però, floho manereta, Kompananzi tabata passa dia den su hamaca patras di cas, sin soru patin placa pa compra cos pa fiesta. Tobr Shimaria, mestera bende renci orrea di garnafein cu summa dusci a muri l'agape. Pere placa, tabata net basta pa laga cose un flus blanco pa Zipopo hasi su primera santa comunion. Shimaria tabata nervioso. A te parade in porta di cucina con manna cabeza, suspirando. Esta trouble! Aqui o Simban caslo ta yin di hende pa celebra fiesta di recebimento di Zipopo. Ta cummi ta hasi! Un ti un sens pa compra nada! Si mi taba tin algum webo, mi mes por atra rabolo, un pan lefi, of siquiera poco cuqui. Si mi taba tin un galinha, lo mia maté, plumé e trajo un salada, siquiera lo taba tin un cos pa contentar stoma. Es un bleque di salmão, comitati escondido improvisci, nanzi a horta e zembla mannabau. E desgraciado, mi retrumia in acarçoncio e flanel. Caramba, bota ordinario, flojo que bota, bom por busco maneira pa aliviar no situação. Unta abua convida bosci di hende, bin come, bin bebe, bin provecia, a urta chi come ti incusirbi da, eh? Contestami, abri go bocca e contestami mi di. Però Kompananzi no arriba ni trece. Ela rec su curpa, dalum hop, voltu den hamaca e sigui ronca bai. Net Zipopo a llega foi lestica di sashi. E tava ti un expression santo riva su cara di tanto preparacion pa su primera santa comunion. Shimaria a yame. Zipopito! Mamãe, sou preto de ovo, vini pra mamãe e pinha boca bem. Pra bobai comindar o padrinho com pacesse, e pra bobi seco, outro se dão dia domingo, bota recebi. E corda pedir sua bendição. Se por acaso com pacesse regalava um placa de ouro, corda com o pé de molenço, rinque de moçaco, e cana bincas um bês, pra bo não perder. Dom miu, vai e binilie. Bom mucha manera sempre, especialmente a woketa seca di ricibi, Zipopo a cana de recita sina by cas di compassese su padrino. Ela llega, ela bati, e compassese abri porta. Manera su mama signe, Zipopo a beijo e ela cominsa. Compassese, mi padrino respetà, at bo iha a bin pa anuncia, cu già domingo si manco da bini, mi ta hasi mi erste heilige camini. Anto, mi ta pidi padrino su bendición di henter, henter di curazón. Anto, nostro varda padrino sese, anto regalo un tinori di trese. Compassese, abbraccia i sunci sui ha. Zipopo, ma sha danki pa bo invitación. Lo mi resa pa bo dentur mi oración. Padrino tana fiesta, naturalmente. E de misa tambe compassese lo ta presente. Tot duel mi masha cu net mi ta mal parra cu ni un placa di oro mi intin pa regala mi hija. Però vini den cucina, mi ti un regalo e mi ta sigur quello no baja malu. Den cucina compassese ad una Zipopo dos arepa traha di arria di menci chichi. Zipopo su vista a cai ribun conci yen yen di webu. Nunca enchega di mira assina hoppi webo. E la purba conta ta quanto, però, después di 24, e la perde tel. Zipopo agradisi su padrino e la yamayò. Na caminda di cas, e la smac su arepa. Cada vez, e la morde pida chiqui chiqui assina, e arepa un cavalier. E arepa tava ta assina. sina duchi così popo all'embe bocca. Però, bon mucha manerità, e la guarda e otro arepa, pa mammai e papai. Ora si popo a passa banda di hamaca di sutata, companasi sun nanisci all'antapar. Mi checuta arepa mi nanisci da holle. Ai, si popo un haia ni chance pa regala sutata un pida. Passò ya caba companasi arranca intere arepa foi su man. Arepa un ta costa mucho chiquito come. Però ta padrino se se mesa regalami. Mesora companasi a dal zipopo un guanta. Stop di rispondere gente grandi, mucho ombe scop cubota. Companasi a come arepa den un comi te batti bocca. Pover zipopo su uova a iena cuava. Mi chiede ad una mamma un pita arepa tambi, però papà è come tur. Tacchico, ta mas labo che? Corda bombo confessa che bota freposto che botata. Bon parse mucho che vai ricevi su prima santa comunion. Companansi arrespo, batti man riba su stoma, e cu su lenga e la saca, ultimo kiriwici di arepa foi buraco di su gente. E arepa a baha bon. Esta un arepa duci, ta hopi uebo batti mester tia den. Papai ti razon, den cucina di compassese, mi ammira hopi uebo. Uebo den conci, uebo den panci, uebo den casci, uebo den laci, uebo den bachi, uebo den bleti, uebo pachi, uebo paia, uebo na cantidad, papai mi non da gagna, papai mi da papi e verdad. Companasi a bulla sale foi a maca maniera ta maribomba piche. E la saca carreda in a carsoncio e flanelmes e la corre te cas di compassese. E la tira un vista d'or di ventana di cucina e la mira tur e uebunan. Companasi abati e compassese a abri porta. Casi, si un rossea di tanto corrimento, Companasi a puntra. Mi buon amico compassese. Tana chi palo e bebo na neta crese. Non perda tempo, mi timpura. Splicami di he den qua cura. Companansi, mi amigo fiel, ni mas che po junta mi lenga con miel. Mi ta sera boca e queda quieto, pa mi non reda mi secreto. Mas che chico, Companansi, ahasi, e con che la lembe compassese, compassese un laga nada los. Companansi atraja su plan. E no abolve cas, e la sconde su curpa tras di rembac di compassese. E la guarda, te ora oloci abati mei a noci. E ora i companasi a mira porta di cucina apri. Compassese aparse, allur tu rompa mira si noti in ningun gente, e la cominsa a cana. Pusci, Companasi a seguire. Compassese a comincia a papia den su mes. Cashu, cashupete, a missino da socchete. Mino da gecciambon di reda, una mi spelonk ta cheda. Cammina di un webu na monton. Mino da loco, mi cabesta bombon. Companasi ta bata masciaca ueta. Si mi lo ha con te, e lo ha coge dos maleta, vai horta tur webu di comer tra cabina, lagami si manera pa mi por cucina. Sin webu batti, pa mi travi bolo. Sin webu herebe, pa dorna sala di collo. Sin webu passana agua, pa turma inta bon trempan, sin webu uovi baca a tardi riba bisnici di pan. Camina tava dall'arco. Mestera passa d'or di mondi, endi su pigna. Subi un sero tappaco caduci, passa un salina turna al lodo, tecu por fina llega ne barrancanan na canti la man. Ei, de un spelon scur tabatabiba coma tragabina e colebra peligroso. Tur dia coma tragabina tabatapone huevo na cantidad den su cueva y tur a noci, coma tragabinà, tabata sali pa busca cominda. Carne, cabrito, e te asta bacca tabata disparse den stoma di coma tragabinà. Compassese appara dilanti di cueva. un barranca grande estaba tapa entrada. Compasese a tosa, limpia su garganta y ella comienza a canta. Cueva di colebra, traga bina, abribo porta, la gami drenta. E barranca dilanti de cueva a comienza a sagudì, jay e la voltu, lora un banda, e compassese a drenta e spellon. Usu rabo di uovo, compananzi a mira con compassese a iena un blechi cuebu. Compassese a salipa fu, e la volve canta. Cueba di colebra, traga bina, serra bo porta, pa sobra mitacla. E barranca a volve sagudì, voltu e tapa entrada de cueva. Compassese a pone e bleque cuebo riva su cabez e ela busca caminda di cas. Compananzi a guarda compassese disparcer in oscuridad di noci e ela ripiti e cantica. Cueba di colebra, traga bina, abribo porta, lagami drenta. Nunca di subida, compananzi umira sina hopi webu. Ela comienza llena saco, bleki, caja di carton cuebu. Entaba ta conocemi di. Ela piki webu teku solo taba ta cayente na xelu. Traga bina a llega cas. Spirito di scorpion, di Lissimben e di Santanero. Da quem a subisserro, te llega da mi porta di erro. Traga bina a drenta su cueva e a mira con companansi tabata horta su webunan. Traga bina a abri su boca, saca su lenga, pa mata companansi e come. Pero mas que companansi a pupo den su carzoncillo di spanto, toh e la bula riba punta di rabo di tragabina. Tragabina abira su cabespa, hap e guli companansi. Pero companansi a bula vai patras e tragabina a hap guli su mes punta di rabo. Companansi a sigi bula vai patras e tragabina a sigi come su mes rabo, su mes corpa, su mes cabes. De qual a fin a sobra solamente un bol grande di carne di colebra. Dia di fiesta di ricevimento, Zipopo a queda mascia neci mes den su flus blanco, su sapato blanco, su dashi pushi blanco e na su brasa su strehi colò di oro. Fiesta tabata mascia anima. Turbiscita a trese bonita regalo. E ta claro cu turlo che si Maria a prepara a baja bon. Tabatin pasteci di colebra, salada di colebra, croqueci di colebra. Tabatin sopi di uebu, uebu llena, dushi di uebu. E turbolo, panlefi e quesillo tabata rico e gel di tanto huevo.